Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. "2024" di Enrico Pagliarini. Saranno la francese Atos e l'americana Nvidia i principali fornitori di tecnologia per la costruzione del supercalcolatore europeo Leonardo, che nel 2021 inizierà a funzionare all'interno del Tecnopolo di Bologna. Leonardo sarà uno dei calcolatori più potenti al mondo. Comunque, quando saremo nel 2021, aspetteremo la classifica che ogni 6 mesi viene redatta per stabilire quali siano i supercalcolatori più potenti al mondo, e sapremo a che punto sarà Leonardo. Questo supercalcolatore rientra tra alcuni supercalcolatori che sono stati finanziati dall'Unione Europea nell'ambito di un programma per il supercalcolo europeo. Francia e Germania guidano questa classifica per potenza di calcolo, poi ci sono altri paesi tra cui l'Italia. Adesso alcune notizie in breve selezionate durante la settimana. Digital News. Partiamo dalle notizie dall'Italia. Cili ha lanciato un nuovo servizio per vedere film gratuiti pagati dalla pubblicità, una novità che si affianca al business principale di Cili, che è il noleggio di film nuovi appena usciti dalle sale cinematografiche. È quello che si definisce TVOD, il Transactional Video On Demand, mentre questo nuovo servizio va sotto l'acronimo di AVOD, Advertising Based Video On Demand. Gli altri servizi tipo Netflix, per i quali si paga un abbonamento e si consuma quello che si vuole, si chiamano SVOD, Subscription, quindi un abbonamento Video On Demand. Open Fiber ha fatto un accordo con AVM, il produttore tedesco dei router Fritzbox, piuttosto noti e molto famosi, per consentire agli operatori che usano la rete in fibra ottica di Open Fiber la fornitura del router già in fase di installazione. Oggi Open Fiber è responsabile della posa della fibra fino all'appartamento, mentre è l'operatore che fornisce il servizio a dover dare il router al cliente. Allora, con questo accordo, il tecnico che predispone la fibra ottica, la borchia ottica nell'appartamento, può aggiungere anche l'installazione del router in un unico intervento, riducendo così i tempi. Adesso altre notizie. Partiamo dalla Disney, che ha annunciato una riorganizzazione che punta sullo streaming per la distribuzione dei contenuti, relegando le sale cinematografiche ad un ruolo marginale. Capisco, questo è ovviamente figlio dei tempi che stiamo vivendo. Peccato, perché il vero cinema si gusta sia per qualità di visione sia per qualità del suono al cinema, ma ovviamente Disney deve reagire anche a questo momento. Allora, per un attacco informatico che aveva coinvolto i dati di circa 400.000 clienti, la British Airways è stata multata per 20 milioni di sterline dal corrispondente del garante privacy italiano. La violazione dei dati risale al 2018. C'è una startup californiana che produce bus elettrici che si chiama ProTerra, che ha raccolto 200 milioni di dollari come ultimo investimento dai venture capital. Un'altra startup, la Arrival britannica, che produrrà veicoli commerciali leggeri, bus e minivan molto belli, andatele a vedere sul sito di Arrival, ha annunciato un finanziamento da 118 milioni di dollari dall'americana BlackRock, che è uno dei più grandi gestori di fondi al mondo. Arrival ha ordini da UPS per 10.000 van con un'opzione per altri 10.000, ed è stata finanziata anche dalle coreane Hyundai e Kia. Plenty, con la Y finale, produrrà altre serre verticali negli Stati Uniti grazie ad un nuovo finanziamento da 140 milioni di dollari, che portano a 500 i milioni raccolti finora. Quello dell'agricoltura idroponica e delle serre urbane è un trend in forte crescita, soprattutto negli Stati Uniti, ma non solo. 24 milioni di dollari invece la raccolta di denaro per ampliare il business di Future, un servizio che ha un nome ben poco originale, si chiama Futuro. Quanti si chiameranno Futuro tra le startup? Comunque, un servizio di remote personal training Future ti affida ad un allenatore personale con un abbonamento mensile da $150, che non è pochissimo, però pare che stia andando molto. Ovviamente tutti questi servizi di training, di allenatore, di allenamento a distanza stanno andando per la maggiore. Da molti insegnanti singoli che si sono ingegnati e fanno lezioni a distanza, fino ad aziende che stanno puntando proprio a servizi come questo e come ad esempio Future. Un'ultima notizia riguarda la guida autonoma da registrare, che Cruise, che è una società americana, una startup americana, è la prima società ad aver ricevuto il permesso di fare circolare per San Francisco 5 dei suoi 180 veicoli senza nessuno a bordo, mentre negli altri 175 rimane una persona che possa prendere il controllo in caso di necessità. Cruise è di General Motors, la maggior parte delle azioni di General Motors, ma vede anche la Honda e SoftBank come investitori. Se c'è un nuovo stile per fare le presentazioni dei nuovi prodotti, Apple sicuramente sta fornendo suggerimenti su come si dovrebbero fare. Oramai le presentazioni non sono più fatte dal vivo, ma sono tutte registrate, montate con effetti speciali. Non dico che siano dei veri e propri film, perché insomma la storia è piuttosto poco originale, nel senso che ci sono dei prodotti da presentare, però sicuramente sono eventi molto curati, senza nessuna sbavatura, tutti registrati. Questa settimana c'è stato l'evento di Apple. Hello and welcome back to Apple Park. E quella che sentite è la voce di Tim Cook, che è stato il solitario presentatore dal bellissimo Apple Park, la sede di Apple in California, Cupertino, di questo evento autunnale per presentare subito un nuovo HomePod, lo smart speaker con Siri che per il momento non arriverà in Italia. E poi i nuovi 4 iPhone 12. Now let's talk about iPhone. Dal piccolo e inedito mini da 5,4 pollici fino al Pro Max da 6,7 pollici. Devo dire che il mini sicuramente va incontro a molte richieste, perché quando i produttori si sono spostati e si sono sempre più allargati, facendo degli smartphone molto grossi, alcune persone chiedevano invece smartphone un po' più piccolini. La prima novità degli iPhone nuovi è l'estetica, perché si torna al design di iPhone 4 e iPhone 5, quindi non più contorni smussati, arrotondati, ma più netti. E del resto non è che col design si possa fare moltissimo, ormai gli smartphone sono praticamente tutti uguali, e forse proprio per distinguersi Apple ha scelto di tornare ad un design che si distingueva molto, che era quello degli iPhone 4 e 5. Poi nuovi display con un nuovo rivestimento ceramico che promette maggiore robustezza, nuovi processori come capita sempre con le nuove generazioni di smartphone, e poi anche Apple punta sulle reti di nuova generazione. Today is the beginning of a new era for iPhone. We're bringing 5G to iPhone. Quindi 5G, le nuove reti di telefoniche di connettività mobile, e qui vedremo poi in Europa e in Italia rispetto agli Stati Uniti quando arriveranno. Certo, gli operatori telefonici stanno cercando di accelerare, qualcuno tra qualche mese comincerà a spegnere il 3G per cominciare ad accendere qua e là qualche antenna 5G in più rispetto a quelle che ci sono oggi. Però tenete sempre presente che per quanto riguarda il nostro paese le frequenze più pregiate verranno messe a disposizione non prima del giugno del 2022, quindi io prevedo che prima del 2022 non ci sia una diffusione massiccia del 5G. Certo, nelle città vedremo qualcosa prima, ma insomma non aspettatevi cose strabilianti. Poi per quanto riguarda, tornando agli iPhone 12, c'è il capitolo fotografia, e con l'arrivo di due cose particolari che tra poco spiegheremo, del LiDAR, il sensore LiDAR, e anche di un nuovo formato sui modelli Pro, si fa un ulteriore passo avanti. Saluto Gianfranco Giardina, direttore del magazine digitale di Day.it. Gianfranco, bentornato a 2024. Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Beh, l'abbiamo detto altre volte, la fotografia sembra sia rimasto uno dei pochi banchi di sfida tra i produttori di smartphone, e ci si chiede se sia il caso di andare così ancora oltre, visto che già oggi i smartphone fanno molto spesso foto fantastiche e meravigliose. A che punto siamo arrivati? Beh, siamo arrivati molto avanti se pensiamo a dove siamo partiti, cioè le prime foto con gli smartphone, o per certi versi anche le foto che fanno smartphone attuali, quelli di fascia molto bassa, lasciano molto a desiderare. E questa funzionalità, quella dello scatto fotografico, è sempre più centrale perché è sempre più richiesta. In realtà oramai lo sappiamo, il mercato della fotografia lo denuncia in maniera evidente: le fotocamere compatte non esistono più. Il mercato della fotografia si è totalmente spezzato in due. E diciamo, per tutti gli utilizzi casual o comunque anche, se vogliamo, per certi versi anche amatoriali di fascia bassa, si utilizza lo smartphone. E poi ci sono i fotoamatori, che pur sempre esistono, che invece ricorrono a fotocamere propriamente dette, che però appunto si spostano verso la parte medio-alta della gamma, quindi reflex e mirrorless, mentre le compatte sono macchine che stanno oramai sparendo, perché è molto più facile usare uno smartphone e spesso anche con risultati più soddisfacenti. E questo non tanto grazie all'hardware di per sé stesso, che per quanto sofisticato sia è molto miniaturizzato, quello negli smartphone, ma per tutto il resto che c'è insieme a quell'hardware, cioè il software che collabora e coopera con l'hardware. E qui ovviamente Apple ha un vantaggio producendo sia il software che l'hardware, e quindi fa un matrimonio perfetto tra le due cose per ottenere delle fotografie che spesso sono ben superiori a quelle che potremmo ottenere a parità di condizioni con una fotocamera compatta. In alcuni casi selezionati, anche meglio di quello che potremmo fare con una reflex o con una mirrorless. Ovviamente qualcuno rabbrividerà a questa mia affermazione, ripeto, casi selezionati. Nell'ambito generale, se io uso un sensore molto grande e delle lenti molto grandi, molto valide, potrò fare cose sullo scatto singolo che una fotocamera, che uno smartphone, scusate, non potrà mai fare, mai emulare, soprattutto sulle lunghe focali, quindi sul teleobiettivi, quindi sugli ingrandimenti molto molto alti. Però ci sono delle tecnologie, che sia hardware che software, che sono state implementate anche e soprattutto sui nuovi iPhone, che permettono di unire diversi scatti, di fare delle elaborazioni particolari e di quindi, grazie a questi stratagemmi, recuperare il gap qualitativo e anche in alcuni casi andare oltre. Quindi in sostanza i produttori di smartphone usano il software per sopperire alla mancanza hardware, banalmente a quella di obiettivi intercambiabili o comunque obiettivi che anche per dimensioni riescono a catturare un sacco di luce. Sì, noi ci siamo interrogati in realtà anche in alcuni articoli, senza avere una soluzione, sul perché i produttori di fotocamere, quindi i classici giapponesi, quindi Nikon, Canon, Sony, Fuji, Panasonic e così via, non abbiano implementato ancora sulle fotocamere dei sistemi paragonabili a quelli che i produttori di smartphone oramai includono nei loro apparecchi. Perché se noi sommassimo la potenza ottica e hardware delle fotocamere, delle migliori fotocamere, con l'elaborazione software che già gli smartphone fanno, beh, avremmo delle macchine di una potenza incredibile, potremmo fare un ulteriore salto in avanti. Certo, qui va comunque contemplata, va comunque riportata, per essere neutri, la voce dei fotoamatori dannata, diciamo così, quelli che mal tollerano le elaborazioni digitali sulle fotografie, perché verrebbe meno, come dire, l'atto artistico, la tecnica, la capacità di catturare l'attimo. Io non credo invece che sia così. Credo che sia cambiato, stia cambiando il modo di fare le fotografie e quindi anche il modo di essere fotografi, di essere creativi fotografi. E si può essere creativi, molto creativi, anche utilizzando i nuovi sistemi e evidentemente piegandoli alle proprie esigenze creative per ottenere un risultato ancora migliore. Come sempre, se uno è esperto, conosce quello che può fare anche con uno smartphone e fa delle foto molto belle. Se uno usa tutti gli automatismi, si deve accontentare, che molto spesso si è molto contenti, di quello che fa in automatico lo smartphone. Tu mi dicevi pochi giorni fa, una volta ancora oggi, si definiva, si usava come sinonimo di fotografia un'istantanea. E oggi forse questo termine non è più corretto, almeno per gli smartphone. Beh sì, perché istantanea, perché ovviamente catturava un istante, ma anche perché l'atto di scattare la fotografia si esaurisce in un istante. Ecco, con l'elaborazione digitale che è permessa dai nuovi strumenti, che permette di catturare una quantità di dati anche apparentemente superflui, non soltanto sull'immagine, ma anche sull'ambiente che lo circonda, sulla profondità, eccetera, eccetera, e riutilizzarli in un secondo tempo per creare delle nuove versioni di quella fotografia. Beh, io dico che lo scatto in questo caso inizia quando si preme il tasto di scatto, che sia virtuale su un display, non importa, e finisce quando si esporta o si elabora l'ultima fotografia. Cioè un atto creativo che prima si esauriva in un attimo e adesso prosegue nel tempo, ma sempre creatività c'è, sempre la sensibilità fotografica serve. Io ho visto delle reflex o delle mirrorless meravigliose da migliaia di euro in mano a persone sicuramente capaci di usarle dal punto di vista tecnico, ma senza sensibilità fotografica. Bene, le foto non erano valide semplicemente perché erano tecnicamente perfette, ma non c'era anima, oppure c'erano degli errori di inquadratura abbastanza evidenti. Invece con uno smartphone può essere che non sia il mezzo tecnico migliore per catturare la migliore immagine, e questo per rispondere alle obiezioni che già mi sembra di sentire da parte dei fotoamatori storici. Ma con uno smartphone si può esprimere in maniera ancora più compiuta la propria sensibilità fotografica, perché appunto, come dicevamo, l'elaborazione prosegue anche successivamente. Lo scatto non finisce nel momento in cui, nell'istante, quindi non è più un'istantanea, ecco, è qualcosa di un pochino più complesso e duraturo, e un singolo scatto, un singolo momento può ricevere tantissime declinazioni diverse e quindi dare luogo a foto anche molto diverse tra di loro che continuano all'interno del device o anche del computer, perché no, per essere elaborate in tante declinazioni diverse. Giusto per spiegarlo a chi magari si è perso qualche puntata o non lo sa, oggi molti smartphone, soprattutto i top di gamma, quando noi scattiamo una fotografia, in realtà quello smartphone non fa una fotografia, ne fa tante, poi le somma e grazie al software tiene solo il meglio delle tante fotografie che scatta. Ci sono diverse strategie da questo punto di vista. Alcune macchine, per esempio in condizioni di luce buone, normali, scattano una raffica di foto se sono così impostate e grazie all'intelligenza artificiale identificano quelle che sono considerabili migliori, per esempio quelle dove è soggetto agli occhi aperti e non agli occhi chiusi. Questo un'intelligenza artificiale è in grado di determinarlo molto facilmente e quindi scarta le foto con gli occhi chiusi. Poi magari noi cercavamo proprio quella con gli occhi chiusi, si può comunque scegliere tra gli altri scatti, ma generalmente quella dove si sorride o quella dove gli occhi sono aperti è sicuramente considerabile migliore. Altre strategie invece nascono per esigenze diverse, per esempio le basse luci. Allora, nelle basse luci io ho un sensore e un'ottica molto grande, molto luminosi, in grado di catturare benissimo queste alte luci e queste basse luci, e questa è la strategia tradizionale, quella delle fotocamere. O con gli smartphone, visto che non posso fare una cosa simile, posso scattare tante foto a mano libera, quindi una rafficona di tante foto, quante lo sceglierà la macchina, che vengono fatte anche esposizioni diverse, ma ci pensa la macchina, io schiaccio semplicemente il tasto, la macchina riallineerà queste foto perché io magari mi sono anche leggermente mosso durante questa raffica, quindi le riallinea, elimina gli elementi che non sono ricorrenti. Perché? Perché quello lì è il rumore, quella grana che vediamo sulle foto molto sgranate, quelle fatte al buio. Ecco, la grana è casuale, compare su uno scatto e non compare su quello dopo, o meglio, compare in una posizione diversa. Tutto quello che cambia posizione viene in qualche modo neutralizzato, cancellato, e quello che invece resta lì, perché quel palazzo non si è mosso e quindi va riportato, viene invece reso in maniera nitida. Questo fa sì che anche con un sensore molto piccolo, anche con un'ottica molto piccola, grazie alla potenza elaborativa dello smartphone, e da qui il termine fotografia computazionale, cioè assistita dal computer di fatto, posso ottenere una foto che in bassissime luci di notte sembra una foto, non dico fatta a luce diurna, ma molto luminosa e contemporaneamente anche molto nitida. Quindi non col classico rumore che si sarebbe portato dentro quella stessa sensore, quella stessa ottica, se avessi fatto uno scatto singolo. Ecco, qui si capisce perché, diciamo, i produttori di smartphone hanno dovuto fare di necessità virtù e dovendo stare con macchine piccolissime, in spessori piccolissimi per motivi dimensionali, e non potendo quindi avere accesso a delle prestazioni delle migliori mirrorless o delle migliori reflex, ecco che hanno inventato, si sono diciamo inventati un meccanismo per cui sommando tanti scatti io riesco a ottenere uno scatto solo che è nettamente migliore. E in alcuni casi, ripeto, e questo è proprio il caso, le bassissime luci, alcune reflex e mirrorless magari non riescono sullo scatto singolo ad avere quella qualità, e ancora le mirrorless e le reflex non hanno questo meccanismo di somma degli scatti direttamente in macchina, questa elaborazione. Quindi alla fine può anche essere che arriva uno con lo smartphone di fianco a me, che sono lì col treppiede, la macchina, eccetera, eccetera, e a mano libera si porta a casa una foto che rischia di essere anche più bella della mia. Poi se andiamo a vedere i dettagli, i particolari, eccetera, eccetera, alcune elaborazioni fatte sulla foto, un occhio clinico, ma direi professionale, riesce a capire quale foto è fatta con la reflex perché è migliore, quale con lo smartphone. Ma parliamo dei dettagli. Per gli utenti, diciamo, generici e comunque anche i fotoamatori, il risultato che portano a casa con un buon smartphone oggi è incredibile. iPhone ha spostato ancora un po' più avanti la capacità elaborativa da questo punto di vista, inserendo un LiDAR all'interno dei modelli di iPhone 12 Pro. Un LiDAR è una specie di, chiamerei radar praticamente, che è in grado di ricostruire la profondità dei soggetti, quindi riesce a ricostruire il 3D della scena, non in termini di immagini, ma proprio in termini di punti e quindi di distanze. Dopodiché questi dati possono essere sommati e sovrapposti all'immagine, e di qui si apre un mondo, perché vuol dire dare la profondità, le informazioni di profondità alla fotografia, che da sempre, da quando esiste la fotografia, è bidimensionale. Diventando tridimensionale, beh, si aprono degli scenari meravigliosi. Ecco, a proposito di questi scenari, visto che iPhone ha introdotto anche un'altra novità, il Pro RAW, che è una sorta di nuovo formato, potremmo definirlo così, che arriverà, verrà implementato nei prossimi mesi, però sicuramente il LiDAR è una novità molto importante. Che cosa possiamo immaginarci? Perché ci sono già state delle dichiarazioni di produttori di applicazioni che si basano fortemente sulla fotografia, penso a Snapchat, ma potrei immaginare anche Instagram e tante altre applicazioni che si basano sulla fotografia, che hanno già dichiarato noi sfrutteremo queste nuove tecnologie degli iPhone per fare cose meravigliose. Tipo che cosa? Beh, tipo, se noi pensiamo che in una scena di avere le informazioni, diciamo, tridimensionali di quella scena, per esempio io ti metto in mezzo a una stanza e ti faccio una foto, Enrico, no? A quel punto non solo ci sarà l'immagine con la tua foto, ma ci saranno le informazioni che mi dicono dove sei tu e dove c'è lo sfondo. Ecco, queste possono essere utilizzate, per esempio, per separarti immediatamente dallo sfondo e quindi magari cambiarti un colore d'un golfino operando soltanto su di te e non sullo sfondo. Quindi anche se quel colore ricorre, per esempio, nello sfondo, non è che cambio il colore a tutta la fotografia e non devo neanche perdere tempo a fare uno scontorno come si farebbe con Photoshop. Io ho le informazioni che sono in qualche modo separabili di tutti i livelli, come fosse un teatrino, no? Con gli scenari. Quindi, pensandolo per esempio in video, io potrei fare che una scritta oppure qualcosa in realtà aumentata giri attorno al soggetto passandogli dietro e quindi non essendo sovrapposto. Perché? Perché io ho le informazioni della sagoma della persona, perché so la sua profondità, e quindi la scritta può passare davanti a lui quando passa davanti ed essere coperta dal soggetto quando passa dietro. E quindi ricreare della realtà aumentata tridimensionale sia in fotografia ma anche in video con una facilità incredibile, o addirittura grazie al LiDAR sempre riprendere le dimensioni e le posizioni degli oggetti nella stanza e quindi posizionare per esempio un soggetto, una scritta, un qualche cosa in realtà aumentata, potendo girarci attorno con in video per esempio, quindi girando attorno a un soggetto che non esiste, e questo grazie al fatto, in maniera molto precisa, grazie al fatto che lo smartphone in questo caso non solo cattura l'immagine ma riesce a ricostruire precisamente il modello 3D della stanza. Tanto per intenderci, la tecnologia LiDAR, anche se più sofisticata, anche se più grande dimensionalmente, è quella usata sulle auto a guida autonoma per ricostruire lo spazio circostante e non andare a sbattere da nessuna parte. Quindi è proprio una ricostruzione spaziale, intesa in termini dello spazio, no? E che ha evidentemente dei vantaggi, soprattutto in unione con questo, con la possibilità di elaborare i dati RAW ai quali facevi riferimento. E qui forse, se ho un minuto, vorrei dire due parole su cosa sono i RAW, perché se ne parla spesso, ma non sempre può essere chiaro. Vai, proviamo. Allora, i file RAW sono quelli che vengono catturati normalmente nelle fotocamere dal sensore, diciamo direttamente. Quello che succede alle informazioni del sensore normalmente è che passano poi in una serie di filtri ed elaborazioni e creano il JPEG tradizionale. Praticamente sviluppano il RAW, che è il negativo, chiamiamolo così, e lo sviluppano in un file JPEG che ha già una serie di elaborazioni. Ecco, molti... Io, per esempio, quando faccio le mie foto, preferisco scattare in RAW, quindi salvare il dato grezzo che arriva dal sensore e farmi lo sviluppo io su computer successivamente, applicando i filtri che voglio io, applicando magari un'enfatizzazione dei colori come piace a me, rifacendo il bilanciamento del bianco che forse non era ideale perché c'eravamo in luce mista, cioè facendo tutte quelle elaborazioni che normalmente farebbe la macchina, ma che fa in maniera arbitraria e che voglio finire io. Quindi questo è un po' quello che dicevamo prima, il fatto che lo scatto viene sviluppato e viene finito in un secondo tempo. Il problema qual è? Che con la fotografia... Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Computazionale. Il RAW perde, così propriamente detto, perde un po' di significato. Perché? Perché se l'immagine vi è già sommata di 100 scatti, è già la somma di 100 scatti, in più magari, come nel caso dei nuovi iPhone, somma anche delle informazioni di profondità per fare delle elaborazioni, e già si può fare anche con una doppia camera, non serve il LiDAR, anche se è un po' meno preciso, tutte queste informazioni in un file RAW normale non ci stanno, perché un file RAW è legato a un singolo scatto e quindi praticamente tutte queste elaborazioni computazionali si hanno direttamente in JPEG. Se io scatto con uno smartphone top di gamma di adesso, qualsiasi, una foto computazionale, quindi elaborata per esempio con questi tanti scatti, è possibile che io abbia un risultato nettamente superiore allo stesso scatto fatto dallo smartphone in RAW. E quindi il RAW perde un po' di importanza sugli smartphone, perché non ha il contributo alla fotografia computazionale. Il nuovo formato pensato da Apple, la scommessa è capire se poi le software house che permettono l'elaborazione dei file supporteranno questo formato o lo sviluppo potrà essere fatto soltanto sugli iPhone, ma la scommessa di questo nuovo formato è quella di offrire un file RAW che abbia dentro praticamente tutti i livelli e tutti i controlli, quindi la possibilità di decidere quanto il rumore deve essere abbattuto dalla somma di tutti gli scatti, come utilizzare i dati di profondità che vengono dal LiDAR, come applicare tutti i filtri che normalmente vengono utilizzati per sommare tutte queste informazioni. Quindi il RAW fa un salto in alto, diciamo così, e diventa un formato non più monoscatto, ma multiscatto e multi anche sorgente, cioè multi informazione, mischiando informazioni di tipo diverso e permettendo una nuova dimensione creativa al fotografo, che successivamente allo scatto potrà non solo aggiustare le luci, ma fare molto molto di più. Quindi, ancora una volta, il software sposta la centralità dello scatto e la sua resa finale, il lavoro del fotografo, anche e ancora di più dopo il momento dello scatto. Quindi quello che dicevamo all'inizio, con questo formato e con queste novità, è ancora più enfatizzato. Gianfranco, grazie per essere stato con noi, come sempre, a presto. Grazie mille. Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini, potete raggiungermi scrivendo a 2024, quindi 2024 @radio24.it, oppure potete scegliere Facebook, LinkedIn o Twitter. Vi ricordo che il nostro programma vi offre una ricca, ricchissima versione podcast, il nostro super podcast con tutte le nostre interviste in edizione integrale. Tra poco parleremo di un nuovo sistema di pagamento arrivato in Italia, anche di turismo e di tecnologia, ma adesso ci domandiamo come fa uno smartphone a sapere dove ci troviamo. Uno dirà: col GPS. Non solo, e soprattutto, come mai ogni tanto fa degli errori? Che mi hanno scritto alcuni dicendomi che il loro smartphone diceva che loro si sarebbero trovati da un'altra parte, invece non era vero. Paolo Dalcheco, esperto di cyber security, esperto di informatica forense, bentornato a 2024. Ciao Paolo. Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, parto da una mail di un nostro ascoltatore che recentemente mi ha fatto questa segnalazione. Tengo attivi tutti i servizi di geolocalizzazione sul mio smartphone perché li ritengo utili. Ogni tanto vado a controllare, l'ultima volta che ho controllato, accanto a un lungo elenco di posti dove effettivamente ero stato, sarei risultato 8 volte in una via di Milano, ma la cosa è priva di fondamento perché non sono mai stato a Milano e dirò di più, in quei giorni ero da un'altra parte con tutti i dispositivi collegati ai miei account, al mio account. Com'è possibile che succeda una cosa del genere? Segnalazioni di questo tipo mi sono state fatte in passato, non tantissime, però anche da alcuni colleghi e da alcuni amici, anche da alcuni ascoltatori. Allora, è una cosa che succede, tra l'altro è successa anche a me. Io a un certo punto sono comparso per qualche minuto in Russia, quindi neanche in Italia o a Milano, e poi chiaramente sono tornato di nuovo nella città in cui mi trovavo prima. Può succedere per questo motivo. Quando il sistema indica la posizione nella quale si trova il dispositivo, quindi che sia Android o un iPhone, lo fa basandosi su diversi parametri. Uno di questi parametri è chiaramente il GPS, quello che tutti riteniamo che sia ciò che permette a un telefono di localizzarci. In realtà ci sono ulteriori parametri che possono servire per migliorare oppure per avere questa informazione quando non è disponibile. Tra questi parametri ci sono, ad esempio, le reti Wi-Fi a cui noi siamo connessi o che sono comunque nella posizione in cui ci troviamo noi. Quindi non è necessario che ci connettiamo a una rete Wi-Fi per permettere al nostro telefono di sapere che quella rete esiste. Una rete Wi-Fi come fa a comunicare al nostro dispositivo la posizione in cui si trova? Lo fa perché il nostro dispositivo, comunicando con i server che siano di Google o di Apple, va a verificare nei suoi database se sa dove si trova la posizione di questa rete Wi-Fi. Quindi in sostanza cosa succede? Che il nostro telefono, soprattutto quando non ha la possibilità di raggiungere il segnale GPS e vuole capire dove si trova, verifica quali reti Wi-Fi sente nella zona e quindi in sostanza gli access point che vede a disposizione. Se noi accendiamo il nostro telefono, accediamo all'area Wi-Fi, vediamo che oltre a quella a cui siamo connessi, probabilmente ce ne sono anche tante altre che il nostro telefono vede. L'insieme di reti Wi-Fi che il nostro telefono sente e vede intorno a sé è un'informazione strategica che permette ai provider come Google e Apple di capire dove ci troviamo. E il problema qual è? Che a volte alcune di queste reti potrebbero, per esempio, essere state spostate da un posto all'altro. Io ricordo quando ho fatto un trasloco da una città a un'altra, ogni volta che mi trovavo nel luogo in cui mi ero spostato e avevo portato dietro l'access point che avevo prima, risultava nella città dove stavo prima, perché in quel momento non avevo altre reti Wi-Fi intorno. Google, in questo caso era Google, sentiva nelle vicinanze questa rete Wi-Fi, per lui io mi trovavo nel posto dove stavo prima di traslocare. Tutto perché questa rete Wi-Fi, secondo lui, stava là. E finché non si aggiorna questa informazione, tutte le volte che io o qualcun altro si avvicinerà, o si avvicinava in passato, adesso si è aggiornato, a quella rete Wi-Fi, senza il GPS a disposizione, Google prende quell'informazione come unica valida e quindi la posizione risulta diversa da quella in cui ci troviamo effettivamente. Oppure potrebbero anche esserci delle impostazioni di rete del provider che fornisce la connettività a quell'access point che potrebbero far pensare al telefono che si trovi in un altro posto. Esatto, per esempio l'indirizzo IP a cui noi che utilizziamo quando ci connettiamo è un altro elemento che i sistemi utilizzano per capire dove ci troviamo. Se voi navigate in internet, quando navigate in internet uscite sull'esterno con un certo indirizzo IP che può essere localizzato, e questo indirizzo IP è uno dei tanti elementi che i sistemi utilizzano per capire e inferire in qualche modo, perché a volte non hanno la certezza ma ci arrivano con dei ragionamenti su qual è la nostra posizione. Senti, come fa a sapere il provider, che sia Apple o Google, che quel Wi-Fi, che ne so, del bar sport dove io sono stato, si trova esattamente in quel luogo? Ci sono diverse teorie. La prima è che abbia iniziato Google con le sue Google Car, nel momento in cui hanno girato i luoghi di tutto il mondo per fare le fotografie, anche ad acquisire tutte le informazioni sulle reti Wi-Fi che queste auto incontravano nel loro percorso. Ed è effettivamente plausibile, è un'informazione che sarebbe stato, diciamo, spiacevole perdere per Google, perché qualunque automobile con la macchina fotografica installata sopra è anche in grado di rilevare quali reti Wi-Fi sono presenti nelle strade che vengono percorse. Quindi questo è il primo elemento da cui potrebbe essere partita questa catalogazione della rete Wi-Fi. E poi ci sono tanti altri modi, per esempio i nostri telefoni potrebbero comunicare al server di Google o di Apple le reti Wi-Fi che hanno intorno in base a diversi parametri, alle app che stiamo utilizzando, a come abbiamo configurato il sistema. Non è mai stato ben chiaro quello che viene inviato a Google, a Apple, in base alla posizione in cui ci troviamo. È plausibile che venga inviato, perché sono dati tra l'altro molto spesso aggiornati. Per cui come fa Google a sapere dove si trova il mio access point che ho a casa mia, se non gliel'ho mai detto spontaneamente? Chiaramente o l'ho ricavato passandoci vicino con la Google Car, o gliel'ho detto io o i miei ospiti o insomma i miei vicini nel momento in cui involontariamente si sono o connessi, o ovviamente non è plausibile che l'abbiano fatto i miei vicini, ma abbiano anche semplicemente visto la rete Wi-Fi del mio appartamento sul loro telefono. Il loro telefono a questo punto può aver passato questa informazione a Google o a Apple, che ha aggiornato e continua ad aggiornare periodicamente i suoi database. Un errore come quello che abbiamo descritto prima non può accadere invece se la geolocalizzazione avvenisse solo ed esclusivamente con il GPS. Esatto, il GPS è molto preciso, arriva anche a un raggio inferiore a 10 metri. L'unico problema che ha il GPS è che a volte non prende. Ci sono delle aree, e chi si occupa di aeronautica le conosce bene, nelle quali il GPS non arriva. Se arriva però è giusto, ecco, a meno che non venga alterato. Ci sono delle app che permettono di far vedere al telefono un GPS diverso da quello che in realtà è quello che sta ricevendo, ma chiaramente dovremmo avere un'app sul nostro telefono che sta fingendo di mandare dei segnali diversi, o alternativamente qualche jammer o qualche emettitore di segnale GPS sfalsato, ma il telefono, se riceve un GPS, tendenzialmente ha quello corretto. Potremmo citare anche il Bluetooth, perché in alcune condizioni, in alcune situazioni, per alcuni servizi, il Bluetooth viene utilizzato per ricavare, cercare di indovinare una posizione, giusto? Esatto, pensiamo ad esempio al sistema che utilizza Apple quando noi chiediamo di trovare il nostro telefono, l'abbiamo magari perso o ce l'hanno rubato, non sappiamo dove si trova, attiviamo l'opzione Find My Phone, trova il mio telefono, e questa applicazione è in grado di funzionare anche se il nostro telefono ha la rete Wi-Fi disabilitata, perché se c'è vicino al nostro telefono qualche Apple, quindi immaginiamo il nostro vicino di casa che ha un telefono Apple ed è nelle vicinanze del nostro telefono e quindi gli parla tramite connessione Bluetooth, è in grado di riportare in maniera anonima ovviamente a Apple il fatto che vicino a lui si trova il nostro telefono. Quindi in sostanza il nostro telefono viene ritrovato grazie al fatto che emette dei segnali Bluetooth che i telefoni intorno possono rilevare, comunicando a Apple che il nostro telefono si trova lì. Quindi è un altro degli elementi che possono essere utilizzati in alcuni ambiti per identificare le posizioni. Per esempio so che in alcuni musei alcune applicazioni permettono di farti vedere e sentire gli audio guide relative a ciò che stai osservando, ai quadri che stai osservando, basandosi sulle posizioni Bluetooth di questi oggetti. In sostanza le app che vengono utilizzate usano dei segnali Bluetooth per capire in quale stanza ci si trova. Quindi chiaramente il Bluetooth viene utilizzato in diversi ambiti per identificare posizioni, soprattutto al chiuso. Sì, lo stesso sistema viene utilizzato anche per alcuni allarmi, per alcuni sistemi antifurto, meglio per meglio dire, che tipicamente mi vengono in mente quelli di alcune biciclette. Ti faccio una domanda sulle celle telefoniche, perché anche le celle telefoniche servono per ricavare la posizione. In quel caso sono un po' meno precise rispetto al GPS, però forse ai fini della posizione precisa, cioè per dire che tu sei a Milano e non a Mosca, le celle sono abbastanza affidabili. Esatto, tra l'altro sono molto utilizzate anche in ambito investigativo, proprio perché sono elementi oggettivi e in qualche modo autorevoli rispetto a quello che può essere un access point o un router wifi installato a casa di un privato. Le celle sono mappate dagli operatori telefonici che con molta precisione indicano in ogni giorno dell'anno dove si trova una cella. Chiaramente una cella si potrebbe anche spostare o ovviamente ci sono anche quelle mobili, tra l'altro, oppure una cella potrebbe assumere il codice che ne aveva un'altra, quindi ci sono dei casi nei quali i sistemi basati sulle celle potrebbero avere delle problematiche di localizzazione, ma sono decisamente minimali. Tendenzialmente sono molto affidabili, per quanto, come hai giustamente detto anche tu, non raggiungono la precisione del quartiere o dell'isolato, ma a volte raggiungono la precisione di qualche chilometro di raggio o in spazi aperti anche un po' di più. Sì, certo. Ovviamente sono più precise dove ci sono tante celle, tipicamente le città, visto che si fa la triangolazione delle celle. Esatto. In città abbiamo anche a volte la possibilità di raggiungere una precisione di un quartiere. Se abbiamo un quartiere con due o tre celle intorno e il telefono riceve il segnale di tutte e tre le celle, per la parola triangolazione arriviamo a capire che siamo all'interno di quel triangolo e quindi magari siamo in un certo edificio o comunque in un certo isolato. Senti, in ambito investigativo ma anche in tribunale come prova, il fatto che noi sul nostro smartphone possiamo ricavare tutte le posizioni dove siamo stati con una precisione piuttosto alta, perché tra l'altro oramai i sistemi riescono a calcolare anche la velocità di spostamento e sono in grado di dirci se stavo camminando, se stavo andando in bicicletta o se stavo andando in automobile o con un mezzo pubblico, cercando anche di capire quali sono i percorsi che noi facciamo. Ecco, valgono come prova? Valgono come prova e sono sempre più utilizzati. All'inizio si utilizzavano appunto le celle telefoniche, ormai si cominciano a utilizzare anche le posizioni memorizzate dal telefono, i luoghi abituali che per esempio Apple memorizza quando noi andiamo spesso in un luogo, tutte informazioni che è meglio vengano acquisite direttamente dall'autorità giudiziaria oppure prodotte dalla parte a seguito ad esempio di una perizia informatica, ma hanno pienamente valore. Quindi nei casi in cui ci siano degli errori, lì insomma ci possono essere problemi. Sì, tra l'altro molto spesso mi viene richiesto proprio dai clienti di dimostrare che loro in un certo momento si trovavano in un certo luogo. La richiesta di dimostrare dove ci si trova viene spesso fatta in particolare in ambito difensivo. Quando si riceve l'accusa di aver commesso qualcosa magari in un'altra città, chiaramente per difendersi si vuole dimostrare che non ci si trovava là e quindi si ricorre a tutti gli elementi possibili, per cui si ricorre alla posizione in cui si trovava il telefono, il computer, la rete wifi in cui ci si era connessi, eventuali navigatori utilizzati. Pensiamo ad esempio a navigatori come Waze. Waze memorizzano l'ultimo mese di viaggi che viene fatto dall'utente, quindi mi è capitato in alcuni casi di dover ricorrere ai tracciati memorizzati da Waze per dimostrare dove si trovava l'utente in un certo momento e anche tra l'altro il tragitto esatto che aveva fatto. Quindi è molto frequente che venga richiesto questo tipo di difesa. Ok, quindi diciamo in caso di errore, cioè nel caso del nostro ascoltatore il cui telefono diceva che era stato a Milano ma lui non c'è mai stato, oppure il tuo caso in cui diceva che eri stato in Russia e invece non ci sei mai stato, quegli errori sono facilmente smontabili. Esatto, perché nel contesto globale sono rilevabili. Per esempio nel caso mio avevo altri elementi che dimostravano che ero a Torino e soltanto in quel momento ho fatto un salto in Russia per poi tornare indietro, e questo chiaramente è poco plausibile. Bene, grazie a Paolo Dal Checo per essere stato con noi, a presto. Grazie mille, a presto. Adesso parliamo di turismo e di tecnologia. In questi giorni si è tenuto TTG Incontri, una importante, forse la più importante fiera dedicata al mondo del turismo in Italia, a Rimini. E una delle domande che ci si sta facendo tra operatori in un momento drammatico per l'industria del turismo è come ripartire. Allora, la tecnologia è sicuramente uno degli ingredienti, non è ovviamente l'unico, ma potrebbe in qualche caso aiutare. Beh, ci sono tecnologie che sono trasversali a tutte le industrie, a tutte le aziende, quindi anche le aziende del turismo già le utilizzano, le utilizzeranno, ma ci sono alcune soluzioni pensate proprio per l'industria turistica. Saluto Roberto Gentile, esperto di turismo, bentornato a 2024. Grazie a voi per l'invito. Dal tuo punto di vista, in quali ambiti la tecnologia può essere un fattore determinante per ripartire nel mondo del turismo? La tecnologia col turismo ha un rapporto pluridecennale, perché ricordo a chi viaggia da diverso tempo lo sa che uno dei primi interventi profondi nel business è stato quello delle compagnie aeree con prenotazione via computer. Ai tempi non c'erano ancora i PC e quindi l'interfaccia con i sistemi delle compagnie aeree, gli aeroporti e le agenzie di viaggi. Stiamo parlando degli Stati Uniti addirittura degli anni 50 e 60, con tecnologie di provenienza addirittura militare. Quindi noi siamo legati da sempre alla tecnologia. In tempi più recenti, hai detto giustamente, dimentichiamo le OLTA, di cui abbiamo parlato anche altre volte, quindi le stranote Expedia, Booking e compagnia bella, e occupiamoci invece di quella che è l'esperienza del cliente in soggiorno. Quindi cosa può succedere quando arriva in un albergo, quando sale su un aereo, quando viene accolto su una nave da crociera? Ecco, quello che secondo me è interessante per gli ascoltatori comprendere è quanto le nuove modalità di relazione mediate dal digitale possano aiutare questa esperienza, possano renderla più ricca ma anche più calda, senza che questo sminuisca il rapporto che deve esserci naturalmente tra chi ospita, quindi catena alberghiera, compagnia di navigazione, hotel e ospite. E in questo senso vedrai che ci sono delle novità molto interessanti che avranno sicuramente peso in quello che succederà quando finalmente riprenderemo a viaggiare tra non tantissimi. Mi fai degli esempi di possibili novità che magari già oggi vengono utilizzate? Certo, allora l'intelligenza artificiale, Alexa e tutto quello che gira intorno all'interazione diretta col cliente hanno già una declinazione abbastanza marcata in ambito croceristico, quindi in cabine di navi. Ormai sono navi eccezionali da 5.000 passeggeri che stanno peraltro riprendendo a navigare in questo periodo, che permettono di erogare dei servizi, prenotare delle attività e scegliere delle opzioni direttamente interagendo con un sistema intelligente, quindi con un chatbot o qualcosa che può replicare direttamente. La stessa cosa in ambito alberghiero. Considera che in ambito alberghiero c'è sempre un po' lo scoglio più latino che nord-occidentale americano del dover avere una persona che ti accoglie alla reception. Ecco, ci sono dei sistemi che permettono di abbreviare questi passaggi e di migliorare l'esperienza di check-in e di check-out. A proposito di alberghi, è con noi Giovanna Manzi, che è amministratore delegato di Best Western in Italia. Benvenuta. Grazie a voi. Partendo dagli hotel e pensando a quello che succede negli hotel, in quali ambiti la tecnologia potrebbe cambiare qualcosa o favorire anche questo momento per mantenere le distanze? Beh, in queste settimane di lockdown e tutto quello che è seguito, abbiamo fatto un salto tecnologico molto importante, no? Che qualcuno stima addirittura in 10 anni. In particolare in Italia scontavamo un po' una arretratezza che ci veniva dalla legislazione, per cui gli alberghi sono obbligati a chiederti il documento quando fai il check-in, e chiaramente questo diventava un po' un alibi, per esempio, per tutti i processi di self-check-in o di pre-check-in, che invece in altre nazioni erano molto più sviluppate. L'abbiamo dovuto fare per forza, perché questo consentiva il distanziamento sociale, e di conseguenza questo sicuramente è una eredità che ci porteremo, perché il cliente apprezza moltissimo in realtà tutto quello che rende più semplice la sua vita, compreso il fatto di poter snellire una serie di procedure. Quindi non viene vissuto come una carenza di rapporto umano, ma semplicemente un qualcosa che migliora l'esperienza totale. Sono cose che si fanno già, nel senso il self check-in, quindi il check-in automatico senza passare dalla reception, e poi vediamo magari come tecnicamente si fa già o ancora in pochi casi? Allora, ritengo che sia, cioè, da noi si fa già da sempre quest'anno, e penso che sia abbastanza diffuso sicuramente in tutte le catene di matrice internazionale, ma in moltissimi anche alberghi individuali che comunque possono godere di una dotazione tecnologica abbastanza ampia, perché il turismo, come diceva anche Roberto prima, da sempre va a braccetto con la tecnologia e quindi non ha scontato, diciamo così, altri tipi di ritardi se non questi di natura normativa. Infatti ci abbiamo tantissimi esempi di uso della tecnologia, per esempio anche con il chatbot, no? Con l'intelligenza artificiale che interagisce con il cliente, anche se chiaramente le strutture italiane non sono strutture standardizzate, e quindi a un certo punto è possibile che il chatbot si fermi, riconosca che quella domanda è una domanda a cui non sa rispondere perché non ha imparato a rispondere, e quindi magari ti direziona poi sulla reception dell'hotel. Però oggi, per esempio, noi copriamo circa l'80% delle risposte alle domande che ci fanno attraverso il chatbot. Ti direi che in questo caso questi esempi non sono così diffusi oggi di interazione attraverso una messaggistica, per esempio noi lo facciamo con Messenger di Facebook, anche perché abbiamo lanciato un po' di anni fa e non c'erano ancora, per esempio, le API di WhatsApp, cose che invece adesso sono più disponibili, quindi sarebbe molto più integrabile facilmente. Tornando al self check-in, tecnicamente come avviene? Avviene a seguito della prenotazione, c'è un rimando al, diciamo, di una sezione, di una partizione del sito dell'albergo, a cui ti rimando proprio con la customer journey. Quindi attraverso la customer journey io ti seguo, tu hai prenotato, io ti seguo, ti mando un link specifico, lì tu compili esattamente come faresti quando prendi un volo o in altre occasioni, compili, diciamo così, il tuo form e alleghi la foto semplicemente dal tuo smartphone del tuo documento, perché ricordiamoci che quello serve sempre, non è che il lockdown ci ha impedito, diciamo così, cioè questa parte. Però è possibile fare la foto e quindi fare automaticamente quella procedura. Fai l'upload in una foto normale come faresti sempre. Ok, immagino che una volta fatta la prima volta nella stessa catena poi valga per sempre. No, perché c'è il GDPR. Ah, quindi ogni volta va rifatta? Ogni volta va rifatta per tantissimi motivi, perché è una norma del GDPR che bisogna rispettare, perché il tuo documento potrebbe essere scaduto, il tuo documento ti potrebbe essere stato rubato, quindi diciamo che qui di nuovo la facilità per il cliente, che noi chiaramente apprezziamo moltissimo, però si ferma laddove c'è un problema di sicurezza. E lì alziamo le mani e quindi seguiamo la norma. Ok. Vado anche in stanza da solo o per prendere la chiave, dove ci sono ancora gli alberghi un po' vecchi che hanno ancora le chiavi, o per prendere la carta per aprire la porta devo passare dalla reception? Ancora in moltissimi, direi la maggior parte, vai in passi dalla reception a prendere la chiave, che sia essa magnetica o ancora quelle con il portachiavi d'ottone. In realtà adesso con le nuove serrature, in alcuni alberghi in Italia, non ti posso certo dire tutti, abbiamo il collegamento, l'integrazione tra la serratura elettronica e il gestionale dell'albergo, e quindi chiaramente anche il dispositivo che ha in mano il cliente, che, no, 100% dei casi è sempre il telefono, e quindi a quel punto lui può aprire la porta della camera attraverso il suo cellulare. Però è in fase di implementazione. Cambiare le serrature non è così come dirlo, cioè nel senso dal punto di vista di investimento, e quindi gli alberghi se la stanno un po' prendendo comoda su questa parte qua, anche visto il periodo non certo fulgido. Altre cose che potrebbero servire e possono servire per mantenere il distanziamento, quindi non incontrare le persone? È il pagamento, per esempio, quindi siamo al checkout, il pagamento è sicuramente un altro elemento che in Italia non era molto sviluppato fino a dicembre dell'anno scorso, ti direi. E invece con questa situazione si è accelerato tantissimo, non solo il pagamento tramite carta e quindi tramite operatori classici, ma tantissimo anche con tutti gli altri decine, diciamo così, di strumenti di pagamento alternativi, da Amazon passando per Apple Wallet, eccetera. Questo è l'altro pezzo. E ancora quello che potrebbe essere, diciamo così, l'altro aspetto è tutta la parte invece di stay, quindi ho fatto l'ingresso, ho fatto l'uscita, quindi check-in, check-out, e poi soggiorno. Nel soggiorno è tutta una serie di servizi dell'hotel, possono essere, diciamo così, la porta d'ingresso può essere il tuo smartphone attraverso o il sito dell'albergo o comunque applicazioni che sono utilizzate proprio per accedere alla spa, al ristorante, la prenotazione della colazione piuttosto che della cena, insomma qualsiasi elemento che faccia riferimento al servizio offerto dall'albergo. Roberto, da conoscitore di questo settore da parecchi anni, da osservatore di quello che sta succedendo, se ti chiedessi qual è il tuo giudizio sul grado di aggiornamento tecnologico del mondo del turismo, cioè stiamo parlando di un'industria che è moderna, tecnologicamente avanzata o ancora molto vecchia, e da un certo punto di vista questo è una grandissima opportunità per chi investe in tecnologia. Guarda, dipende dal punto di vista, cioè da qual è il perimetro in base al quale tu fai questa domanda. Se è Italia, se è mondo occidentale, se è mondo. Se è Italia siamo indietro, ma siamo indietro perché tecnologicamente e culturalmente non siamo all'avanguardia come una Cina, un Singapore, una Malesia o quei posti lì, insomma. Quindi in quei luoghi lì l'idea di avere una chiave col portachiavi d'ottone penso che sia come una cassetta C60 della TDK, cioè non sappiano neanche cosa sia. Quindi è evidente che dove la tecnologia è più avanti, l'approccio con le nuove modalità sia molto più scorrevole. Non dimentichiamo che da noi ci sono quasi 40.000 hotel, o almeno prima della pandemia, tali erano indipendenti in Italia. Di questi solo il 5% appartengono a catene come quella diretta da Giovanna Manzi, e quindi un'enorme quantità di alberghi sono indipendenti, sono a gestione familiare, sono la pensione Mariuccia con la chiave, col portafoglio d'ottone, e questi qui giustamente non è che abbiano tutta sta voglia, sta esigenza di passare ai chatbot, alle chiavi elettroniche, ai pagamenti con lo smartphone, eccetera, un po' perché non ce l'hanno culturalmente, un po' perché la loro clientela, ahimè, non è ancora pronta. Tutto cambierà, e questo ne hai parlato spesso nella tua trasmissione, con millennials e centennials al potere, cioè quando i ventenni di oggi andranno in un albergo tra 10 anni, voglio vedere se sa anche cos'è una chiave o cos'è un form di registrazione. Però non è una cosa, almeno in Italia di oggi. All'estero dipende dai paesi sicuramente molto di più. Roberto, grazie per essere stato con noi. Ti dico anche che hai dato uno spunto per andare a fare una ricerca online ad alcuni nostri ascoltatori che secondo me non sanno che cos'è una cassetta C60 TDK. Grazie per lo spunto. Grazie a te, a presto. Grazie Enrico, a buon lavoro. E grazie anche a Giovanna Manzi per essere stata con noi, a presto, buon lavoro. Grazie, grazie. Parlavamo prima di pagamenti elettronici. Fra le novità relative a pagamenti elettronici arriva anche in Italia Swatch Pay, dal nome di un brand di orologi molto noti, che abbina una carta di credito ad un orologio tradizionale che non è appunto uno smartwatch, come ci ha spiegato Carlo Giordanetti, che è uno dei manager della Swatch in Italia. Intanto tutto il sistema di Swatch Pay si basa sulla collaborazione ovviamente con dei partner. Ci vuole un partner banca e un partner carta di credito, circuito carta di credito. Nel caso dell'Italia abbiamo cominciato ieri e la Banca Intesa è il nostro partner bancario, mentre Mastercard è il partner circuito carte di credito. Quindi quello che uno deve avere per attivare SwatchPay è un conto Intesa e una carta di credito Mastercard. Questo per la fase 1. Naturalmente tutto questo si sta già dirigendo verso l'aggiunta di nuovi partner sia dal punto di vista bancario che di altri circuiti di carte di credito. Bene, a questo punto avendo conto corrente, carta di credito e ovviamente l'orologio, come si fa poi per attivare il servizio? Il servizio si attiva in un punto vendita Swatch, nei negozi monomarca Swatch o in alcuni concessionari che abbiamo scelto per la qualità del loro servizio, che hanno la struttura che serve ad attivare l'orologio, ed è molto semplice. Senza nemmeno togliere l'orologio dalla confezione, c'è una piccolissima stazione di attivazione nel negozio, si scarica l'app SwatchPay, su questa si digitano i dati della propria carta di credito, la banca in tempo praticamente reale, c'è cioè uno scarto di 2 o 3 minuti al massimo, invia sul telefonino dell'utente un codice che lui inserisce, che è il codice che permette la validazione, diciamo, dell'identità, naturalmente, in modo tale che ci sia il massimo della sicurezza, e a quel punto l'orologio è attivato. La caratteristica di SwatchPay è che il sistema non è a quel punto più assolutamente dipendente dall'iPhone, è completamente indipendente, quindi io posso anche lasciare il mio telefonino a casa e posso permettermi di fare tutti i pagamenti che voglio con il mio SwatchPay. Naturalmente l'app SwatchPay mi consente di attivare o disattivare l'orologio nel momento in cui, per esempio, io decida di partire per un viaggio e di non portarmelo dietro, con un semplicissimo tap sull'icona della carta di credito, io disattivo l'utilizzo dell'orologio nel periodo che voglio. L'unico vincolo è che mentre con uno smartwatch io posso associare più di una carta o comunque posso cambiare la carta in modo digitale in remoto, in questo caso se io voglio cambiare la carta devo andare in un punto vendita. Per il momento ancora sì, stiamo lavorando sia noi che il circuito dei partner che abbiamo per far sì che in una seconda generazione che però è veramente alle porte si possa anche attivare dal punto di vista remoto e quindi fare tutte le operazioni da casa propria. Diciamo che diversamente dai concorrenti, io, è vero, come dice giustamente lei, non posso associare più carte di credito o cambiare carta di credito. In compenso posso associare più orologi alla stessa carta di credito. Per esempio io sulla mia app ho 3 orologi diversi, che a seconda di quello che decido di portare posso disattivare gli altri 2. Il tempo a nostra disposizione è terminato, anche se il tempo di questa, che è la versione podcast, è dilatato rispetto alla nostra trasmissione che va in onda il venerdì tra le 22 e le 23, in replica alle 13:10 della domenica, con qualche taglio, quindi una breve replica. Come sempre grazie per la vostra attenzione, grazie a Laura Faggin che mi aiuta in redazione, potete scriverci a 2024@radio24.it con domande, risposte, perché a volte ci sono alcuni che ci danno delle risposte a delle domande che facciamo noi ai nostri ospiti, alcuni ci danno la loro versione, oppure critiche, applausi, oppure anche suggerimenti per temi che vorreste sentire affrontare, o anche ospiti, magari vi è piaciuto uno che avete sentito parlare, dite perché non intervistate Pinco Pallino, noi prendiamo in considerazione la proposta e la valutiamo. Siamo molto esigenti, però valutiamo tutto, leggiamo tutte le mail, ma non riusciamo a rispondere a tutti, però leggiamo tutto. Potete scriverci via mail, via Facebook, via LinkedIn, via Twitter, io preferisco la mail, poi voi fate un po' come volete. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana. Ora è ora di avere un sito internet.